cerchi di essere, perlomeno io, non ho visto la notizia in nessuna, diciamo, in nessuna testata giornalistica locale, benché lo sforzo fatto dagli organizzatori della manifestazione sia stato di sicuro rilevante. Stiamo parlando della manifestazione che venerdì 9 di febbraio ha visto scendere dal Mugello, per la precisione da Firenzuola, quasi un centinaio di manifestanti che sono arrivati in zona Piazza della Stazione per contestare la conferenza dei servizi nella quale è in discussione, si apre nuovamente l'iter autorizzativo per l'ampliamento, costruzione e ampliamento della discarica del Pago che si trova a Firenzuola. È una storia che in qualche modo è legata a doppio filo con le vicende dello smaltimento dei rifiuti fiorentini, proprio perché come il comitato, i cittadini, gli abitanti che sono scesi da Firenzuola hanno spiegato che la discarica di Firenzuola è stata per la prima, diciamo, costruita e messa in opera dal settembre del 2008, quando, secondo quello che diceva l'allora presidente della provincia, che era Matteo Renzi, avrebbe dovuto ospitare i rifiuti fino alla costruzione dell'inceneritore della Piana, o meglio di due o tre inceneritori che sono sempre stati un po' in ballottaggio per quello che era lato centro, e quindi diciamo, la porzione di territorio che comprende la Piana Fiorentina. Fino alla costruzione dell'inceneritore della Piana Fiorentina, quindi di Case Passerine e degli altri Selvapiana Pontassieve, la discarica di Firenzuola avrebbe dovuto ospitare i rifiuti appunto provenienti dall'area metropolitana fiorentina. Questa storia, diciamo, è cominciata quindi nel 2008, più o meno si prevedeva allora, quando fu autorizzata e prevista e progettata la discarica, che avrebbe dovuto ospitare circa 700.000 tonnellate di rifiuti. Nel tempo poi invece è andata a crescere perché gli abitanti di Firenzuola al presidio denunciavano come la discarica in questi circa 15 anni di lavoro ha ospitato invece è arrivata ad ospitare fino a 1.200.000 tonnellate. Negli ultimi poi 2 anni, quindi più o meno siamo intorno al 2015, la discarica di Firenzuola era stata chiusa, anche perché sostanzialmente aveva raggiunto, e anzi, come ho detto, rispetto alle cifre iniziali, 700.000 tonnellate progettata, 1.200.000 quelle realmente accolte, aveva anche raggiunto i suoi limiti di capienza. In questi 2 anni, invece, si sono ricominciate a muovere delle acque. E sembra che appunto nel piano provinciale e regionale dei rifiuti voglia essere allargata e nuovamente utilizzata la discarica di Firenzuola. Quindi giustamente, ovviamente, li abbiamo anche sostenuti come movimenti, come comitati, anche partecipando ovviamente al presidio di venerdì 9, si è sviluppata questa nuova opposizione all'ampliamento della discarica. Direi che appunto la manifestazione è stata di un certo rilievo, perché comunque partire da Firenzuola con un bus e qualche macchinata, arrivare a Firenze, dover manifestare in un contesto che poi è quello del centro cittadino, quindi anche dovendo sottostare in qualche modo ai ricatti, ai diktat dell'ordine pubblico, non è una cosa facile. Invece il comitato, che tra l'altro non è diciamo un comitato molto storico, ma è nato solo sul finire dell'anno scorso, quindi sul finire del 2017, ottobre-novembre, attraverso alcune tipiche assemblee popolari rivolte appunto agli abitanti di Firenzuola, è un risultato, direi, appunto davvero interessante. Quindi guardiamo con interesse a quello che sta succedendo a Firenzuola, ci guardiamo, diciamo, con un doppio senso di interessamento, anche perché dentro le corde, dentro le reti dei movimenti e dei comitati che lottano sul ciclo dei rifiuti è nata sulla spinta delle, diciamo, delle iniziative di questi anni contro la costruzione dell'inceneritore di Case Passerini nell'area metropolitana fiorentina, l'idea di organizzare un primo incontro regionale delle realtà, dei comitati, anche ovviamente aperto anche ai singoli, a tutti coloro che volessero e sono interessati a partecipare, un incontro per discutere, cominciare a mappare, capire un po' qual è lo stato dell'arte, tenendo conto appunto che c'è in corso diverse manovre, come dimostra anche la storia della discarica di Firenzuola, che non l'ho detto fino ad ora, è gestita da ERA, il gruppo ERA, lo stesso gruppo che sarebbe proponente dell'inceneritore di Case Passerini, quello che in associazione con ex Quadrifoglio, oggi azienda Alia, formano la società Q-Termo, che è la società proponente l'inceneritore di Firenze o Case Passerini, che poi è la stessa cosa. La stessa azienda ERA, che ricordiamolo se non l'abbiamo mai detto, per chi non lo sapesse, è una enorme multi-utility, diciamo proveniente, se così possiamo dire, per l'appunto dall'Emilia Romagna, dove gestisce già molti impianti di smaltimento tra inceneritori e discariche per rifiuti speciali. L'azienda ERA, appunto, molto probabilmente ha ricominciato le manovre per l'ampliamento della discarica del Pago, laddove le autorizzazioni, l'iter autorizzativo per la costruzione dell'inceneritore nella piana fiorentina si è dilungata oltre quelli che avrebbero voluto essere le proprie tempistiche. Quindi ricordiamo che ad oggi l'inceneritore di Case Passerini è ad oggi ancora l'iter autorizzativo è sospeso per una sentenza sospensiva del TAR, tribunale al quale siamo ricorsi come cittadini, come comitati e come movimenti. Si sarebbe dovuto pronunciare, o meglio, c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato il 19 dicembre del 2017 che avrebbe dovuto, diciamo, dirimere la questione, quindi o obbligare i proponenti l'opera, cioè gli inceneritori, a ricominciare un altro iter autorizzativo, oppure, quindi dando ragione a noi comitati, oppure dare torto a noi comitati e quindi sbloccare l'iniziativa dei proponenti l'inceneritore. Ad oggi, ancora nonostante questa sentenza sia stata, diciamo, discussa il 19 di dicembre del 2017, ad oggi, febbraio, ancora non è, diciamo, non è pubblica. Molto probabilmente l'impressione che abbiamo è che stiano traccheggiando proprio perché si avvicina la tornata delle elezioni nazionali che, come sempre, hanno un rilievo e un peso anche in vicende come queste. Quindi l'idea che ci siamo fatti è questa, però insomma, restano ancora le pratiche autorizzative per l'inceneritore della Piana Fiorentina ancora indecise. Le sorti non sono certe e quindi è possibile che il rapporto che lega la discarica del Pago di Firenzuola con l'inceneritore ancora fermo di Case Passerini sia un rapporto che esiste davvero, rapporto che ovviamente gli abitanti, i comitati di Firenzuola non hanno mancato di sottolineare per alcuni versi e in alcuni momenti anche in modo polemico, anche se diciamo proprio perché l'idea da parte nostra, da parte delle situazioni fiorentine è quella di lanciare per il 25 di febbraio questo incontro regionale sul tema dei rifiuti, è stato poi ricomposto, cioè non c'è una polemica, non c'è un'accusa nei confronti, diciamo, un'accusa indiscriminata nei confronti di Firenze, ma chiaramente c'è la capacità da parte dei comitati di leggere le responsabilità che sono a livelli molto diversi, le responsabilità dei decisori pubblici, quindi diciamo della politica, che poi in questi anni in continuità ha visto il Partito Democratico, prima ancora DS e prima ancora PDS e ancora prima PC governare questi territori, Una cosa sono queste responsabilità, un'altra cosa sono le responsabilità delle aziende che vanno a fare affari sul ciclo dei rifiuti, era in questo caso in testa a tutte, e un'altra cosa sono le responsabilità dei cittadini e degli abitanti delle aree metropolitane. Quindi, diciamo, utilizzando questa griglia interpretativa che separa le vittime dai carnefici, se vogliamo usare delle schematizzazioni molto, molto nette, con il comitato di Firenzuola e contro la discarica del Pago, si è già stabilito un buon rapporto che li vedrà sicuramente tra i partecipanti di questo incontro. Lo ripeto, così per fare un po' di spot, visto che è ancora in là e saremo in tempo ascoltando la trasmissione, l'incontro regionale rivolto alle realtà che lottano sul ciclo dei rifiuti in Toscana è programmato per il 25 di febbraio, che è una domenica. Si parte la mattina più o meno verso le 10 e poi tra momenti di discussione e di presentazione, tavoli di lavoro tematici su temi e perimetrazioni tematiche ancora da discutere e da discutere insieme con le realtà partecipanti, plenarie conclusive, ipotesi di lavoro future. Alcune idee, diciamo, come obiettivi a medio periodo già ci sono e possono anche essere divulgati, nel senso di in qualche modo fare delle anticipazioni rispetto ai temi dell'incontro regionale. Per esempio, vorremmo diffondere, estendere la possibilità che altre situazioni, oltre alla piana metropolitana fiorentina e all'area metropolitana fiorentina, facciano esposti alla Corte dei Conti, denunciando il mancato raggiungimento degli obiettivi sulla raccolta differenziata come previsto dall'Unione Europea, cosa che accomuna la gran parte dei territori della nostra regione e sui quali crediamo sia sensato dare battaglia amministrativa legale, che poi diventa ed è immediatamente battaglia politica, perché contestare l'attuale, diciamo, gli attuali programmi di raccolta e quindi l'insufficienza della raccolta differenziata che si realizza nei nostri comuni o nelle nostre perimetrazioni territoriali, ci dà la possibilità di provare ad attaccare sui sistemi di raccolta, quindi contrapponendo quelle che sono le nostre rivendicazioni da sempre, quindi la raccolta differenziata porta a porta con tariffazione puntuale. Inserita in una filosofia, in una cornice più generale, nella quale noi consideriamo come il protagonismo degli abitanti e anche il fatto che gli attuali sistemi di raccolta differenziata fanno sì che le aziende che poi vanno a riutilizzare, magari anche in modo virtuoso da un punto di vista ambientale, le materie differenziate, però nello stesso tempo realizzano un esproprio ai danni degli abitanti, perché si appropriano gratuitamente del lavoro di differenziazione della spazzatura e dei rifiuti che gli abitanti fanno. Noi crediamo invece che un sistema di tariffazione puntuale sarebbe più equo, sarebbe incentivante, perché sarebbe premiale per chi fa bene e automaticamente quindi punitivo per chi fa male, cioè per chi produce spazzatura e non differenzia rifiuti, ma soprattutto sarebbe premiale per chi fa bene, quindi premiando sarebbe un incentivo per farla veramente bene la differenziata. Stiamo parlando ovviamente sempre e solo dei rifiuti solidi urbani, cioè di quello che viene prodotto nelle civili abitazioni. Tutto un altro capitolo sarebbe dedicabile a rifiuti speciali o rifiuti industriali, insomma, i rifiuti ospedalieri, quindi sono tutti temi che verrebbero trattati. Però l'attacco rispetto alla questione del danno erariale, e gli esposti alla Corte dei Conti ci permetterebbero di affrontare la questione politica, di rovesciare o il tentativo di farlo, mettere in croce in difficoltà le amministrazioni, chiedendo a gran voce un cambio nei programmi di raccolta, appunto estendendo il più possibile e attuando programmi di raccolta differenziata con tariffazione puntuale, Questo è un elemento che ci sembra davvero importante, anche questo è un punto di vista chiaramente che è più proprio della nostra situazione fiorentina, come più volte ho dovuto sottolineare facendo la cronaca locale, la questione anche di smantellare, demistificare l'approccio ordinista ai rifiuti che legge la questione solo o prioritariamente da un punto di vista dell'ordine pubblico e del decoro, cioè la questione dei rifiuti non è una questione di decoro urbano, o meglio, non è esclusivamente una questione di decoro urbano, insieme a questo, che magari è un aspetto che esiste, non lo possiamo del tutto negare, però è un aspetto che noi consideriamo sicuramente marginale rispetto alla necessità di riutilizzare le materie prime seconde, rispetto appunto alle priorità ecologiche che oggi ci chiede il pianeta. E rispetto anche a una più equa distribuzione della ricchezza, rispetto alla quale un sistema di raccolta, ripeto, a tariffazione puntuale sarebbe indubbiamente socialmente più giusto. Quindi niente, ho commentato un po' e ho dato la notizia, visto che le cronache locali non la riportavano, della discarica, della manifestazione contro la discarica del Pago, questo è il nome, situata a Firenzuola. Un altro elemento che per chiudere su questa questione mi sembra rilevante sottolineare è diciamo, la maturazione e la lezione che le popolazioni, le comunità locali sono spesso poi in grado di fare rispetto a situazioni precedenti, o meglio, nei commenti, nelle chiacchierate, anche nei momenti informali o anche addirittura. Visto che oggi la rete in qualche modo ci dà un certo vantaggio rispetto a quello che sarebbe stato lo stesso lavoro di inchiesta fatto 20 anni fa, si vede come nelle parole degli abitanti di Firenzuola è forte la consapevolezza di quello che è accaduto sul territorio con i lavori dell'alta velocità. Sappiamo che Firenzuola, come molti altri comuni del Mugello, è stato proprio il Mugello, è stato negli anni 90 il primo territorio in Italia in cui sono partiti i lavori per la realizzazione dell'alta velocità, il consorzio CAVET, quindi Alta Velocità Emilia-Toscana, che proprio in Mugello, grazie indubbiamente anche al ruolo che le amministrazioni allora PDS-DS sono riuscite a dare quella stabilità politica e a gestire la situazione. Negli interventi degli abitanti di Firenzuola è forte la consapevolezza che gli argomenti che allora il Partito Democratico si chiamava DS, ma in sostanza è la stessa macchina elettorale che si muoveva allora, portava a favore e per convincere, e diciamolo senza vergogna, per imbonire le comunità locali rispetto all'acquiescenza nei confronti del passaggio appunto, dei lavori, tra l'altro ingenti, tra l'altro anche disastrosi da un punto di vista ambientale, anche con morti sul lavoro. Ricordiamo, per esempio, le denunce, il lavoro, interessante fatto da Pietro Mirabelli, della CGIL, osteggiatissimo, figura osteggiatissima poi anche dal suo stesso sindacato, comunque di denuncia delle condizioni di lavoro, di pericolosità, dei morti, il cantiere del Carlone. Insomma, le vicende sarebbero tante, difficilmente da ricostruire, ma magari nel tempo ci torniamo, magari anche con interviste dedicate, sempre attraverso questo spazio della trasmissione Passaggio a Nord-Ovest. Comunque è forte la consapevolezza che le argomentazioni di allora, che dicevano l'alta velocità porterà turismo, porterà maggiore integrazione economica, e nello stesso tempo ci saranno delle ricadute anche attraverso opere compensative sui vostri territori. Ecco, nelle parole degli abitanti di Firenzuola si legge la realtà di quello che è accaduto, cioè devastazione ambientale, danni ingentissimi soprattutto alla rete idrogeologica, molte sono state le fonti, le sorgenti che sono state disperse proprio per i lavori di scavo, e quindi nessuna ricaduta in termini turistici, le poche cose che sono state probabilmente date in forma di compensazione sono state del tutto insufficienti e non sono ne state in grado e mai lo sarebbero state in grado di ripagare i danni avvenuti. Ecco, rispetto a questo, quello che il comitato dice è: noi, Firenzuola, ha già dato, è già successo questo, questo e quest'altro. Il comune di Firenzuola ha detto troppe volte sì, è l'ora di dire basta, di porre degli elementi di rigidità, e questa rigidità la possono porre solo gli abitanti con il loro diretto protagonismo, e quindi per questo il momento di manifestazione del 9 di febbraio, e quindi la determinazione degli abitanti di Firenzuola, che da lassù sono venuti fino a Firenze per manifestare e in numeri notevoli, è stata significativa per tutta una serie di cose che ho detto, e che spero insomma, di non avervi troppo annoiato nell'allargare, nel dipanare il più possibile dalla semplice cronaca quella che è la situazione, appunto, che vivono a Firenzuola. Quindi lunga vita alla lotta degli abitanti di Firenzuola, e lunga vita alle lotte che potremmo fare insieme, cercando di darsi dei momenti di incontro delle rivendicazioni comuni, che è l'idea che ci ha portato e ci porterà il 25 di febbraio a Villa Montalvo a Campi per l'incontro regionale delle realtà e dei comitati in lotta sul ciclo dei rifiuti. Quindi questa ve l'ho detta. Cominciando a guardare un po' i giornali e le notizie che ho selezionato per il vostro godimento settimanale, teniamo ovviamente sempre conto che si avvicinano le tornate elettorali, e siamo ovviamente a Firenze, e che, come ho ricordato subito in apertura di trasmissione, parlando della discarica del Pago, attraverso le parole di Matteo Renzi, che era in quegli anni presidente della provincia. Quindi questo era per dire che Matteo Renzi in questo territorio è il territorio in cui ha costruito la sua carriera politica. Quindi, da presidente della provincia a sindaco di Firenze, la candidatura da Firenze, che è stato poi il trampolino di lancio per la scena nazionale e la segreteria nazionale del Partito Democratico. In sostanza, ecco, Renzi ora in campagna elettorale torna in quella che lui considera, chiama e sviolina continuamente come la sua Firenze. In qualche modo lo è davvero, perché la città lo ha sostenuto fortemente, insomma, non facendogli mancare consensi significativi. E niente, quindi, diciamo, quello che mi serviva a dire che in alcuni di queste dei fatti che andremo a commentare o a guardare insieme, va tenuto conto che, appunto, il momento è quello della campagna elettorale, della campagna elettorale che soprattutto Renzi è tornato a fare nel collegio nel quale si candida, che appunto è quello di Firenze, e quindi sta girando la città. L'ho detto più volte anche nelle puntate precedenti, un po' scherzando, un po' no, ci sta che qualcuno lo possa anche incontrare. Chiaramente non da solo, sempre accompagnato con scorte e quant'altro, ma lo possa incontrare per la città, perché questa è, diciamo, la forma della campagna elettorale che Renzi ha scelto per questa tornata. Una campagna elettorale che sostiene di voler fare tra la gente, quindi lo vediamo continuamente in biciclettate, lo vediamo a girellare per i quartieri, e lo vediamo, lo vado a leggere sconsolatamente qui in una foto della presa dalla Repubblica del 12 febbraio di quest'anno, insieme al partigiano Sarti, partigiano abbastanza famoso e so, una figura rispettata e carismatica della resistenza fiorentina, Silvano Sarti, presidente dell'ANPI di Oltrarno, con il quale c'era stata una certa discussione, una certa distanza ai tempi diciamo, del referendum costituzionale. Quindi, da una parte l'ANPI e Sarti erano contrari al tentativo di riforma costituzionale, in difesa appunto della Costituzione uscita dalla Resistenza, come contributo anche di quelle che erano state le forze comuniste al processo di liberazione, alla guerra di liberazione nazionale, mentre Renzi, appunto, nelle migliori intenzioni, diciamo, di riformare la governance mettendola all'altezza di quelle che sono le richieste del sistema neoliberista che vede in ogni elemento di democrazia e di partecipazione un ostacolo alla macchina della decisione pubblica che è più è autoritaria e più è in grado di rispondere ai grossi interessi ai quali il Partito Democratico si prostra con solerzia da anni. Era il proponente del referendum costituzionale. Sembra quasi che ci sia una nuova pace e questo si va ad inserire appunto in una cornice che è anche quella delle dichiarazioni e dei fatti nazionali. Ovviamente l'attacco e diciamo, l'uscita allo scoperto di tutta la retorica della destra, soprattutto della coalizione nella quale emerge Salvini rispetto alle questioni migratorie e anche la settimana che segue ai fatti, all'omicidio, no, all'omicidio, ai fatti devastanti di Macerata, del ferimento dei sei stranieri ad opera del Traini. Quindi sono tutte manovre che vanno lette anche in chiave, anche, forse soprattutto se non esclusivamente, in chiave elettorale. Ora non voglio stare qui a fare eccessivo commento politico, comunque insomma, alla Casa del Popolo piena, il partigiano Silvano Sarti, seduto accanto, l'analisi della parola compagni che viene da dividere il pane. C'è poi questa foto mesta del partigiano Sarti e di Renzi che con il gomito sul tavolino a fianco uno all'altro sembrano davvero dialogare da pari a pari. Tra i due era sceso il gelo ai tempi del referendum costituzionale, ieri si sono abbracciati. Ecco Renzi che torna a Firenze e cerca di grattare il barile dei consensi, quindi ora si riscopre antifascista, come vedremo più avanti con le dichiarazioni l'andata a Sant'Anna Stazzema, e si riscopre anche vicino e amico dell'ANPI. Ci domandiamo, ecco, ma sono domande appunto alle quali le risposte sono già date, quest'ANPI che vuole ricucire con Renzi, dove pensa di andare, e niente, via, lasciamole in sospeso perché mi sembra che insomma, le cose si dicano sostanzialmente da sole. C'è poi tutta la settimana dura diciamo, la tiritera del bike sharing, cosa succede, cosa non succede con le famose biciclettine in cosiddetto free floating. Sembra per l'appunto che se ne vada uno dei due operatori presenti a Firenze, il primo. Quello delle biciclette per intendersi arancioni era Mobike, e l'altro, quello delle seconda ondata di biciclette, è Gobi. Sembra proprio che questo Gobi se ne voglia andare. Leggo sempre da Repubblica del 12 febbraio: Gobi in disarmo dopo Torino, l'azienda pronta a lasciare Firenze. 400 bici e l'accordo con il comune di Firenze ne prevede fino a 4.000, però succede che l'app ufficiale è un deserto, le bici verdi che vengono visualizzate si contano sulle dita di una mano. Che fine hanno fatto le bici di GoBike? Questo dice il giornalista. La verità è che il business asiatico delle bici a noleggio free floating mostra le prime crepe in Europa. GoBike sarebbe in ritirata e potrebbe presto decidere di lasciare il capoluogo toscano, cosa che vedremo poco più avanti farà davvero perché in una settimana, dalle dichiarazioni che sembrano non essere confermate, si arriva poi alla notizia definitiva. Andiamo sulla Nazione invece del 12 di febbraio e senza entrare nel merito, anche perché appunto non è neanche facile, diciamo, spesso e volentieri non è facile stare diciamo, ad una critica puntuale di quello che emerge sui giornali, è evidente, lo capite. Abbiamo però questo paginone in cui tasse sconto tariffa e stangata servizi. L'unica che mi è sembrato così curioso sottolineare è quella dei rifiuti light, dopo appunto diciamo, tra i vari rincari sembra che quella dei rifiuti sarà una tassa light, cosa che mi ha un po' stupito, non ne vedremo la ragione, anche perché appunto da una parte un giorno ci minacciano dicendo che quanto costa dire no all'inceneritore di Firenze, il giorno dopo sembra che invece vada tutto bene, quindi non si capisce perché la tassa sui rifiuti dovrebbe essere light. Boh, prendiamola per quello che conta. Dall'altra parte invece occhio, perché aumentano acqua, luce e gas, occhio alle agevolazioni, ecco quanto pagheremo. Questo è il titolo della Nazione, che non andiamo ad approfondire poi più di tanto. Qui poi direi che da tenere in considerazione, in questa settimana l'avevo già annunciato, c'è stata su Firenze anche la visita e la venuta del ministro degli interni Minniti. Qui un articolo dalla Nazione, uno dei tanti che sono apparsi sui giornali: città più sicura, una firma per cominciare. La richiesta arriva a gran voce, i fiorentini pretendono sicurezza. Vorrebbero poter tornare agli anni 60, anche 70, quando giravano per le strade senza temere di essere scippati, rapinati, aggrediti, quando potevano lasciare la chiave nella toppa o le finestre aperte d'estate senza che nessuno ne approfittasse. Sto ovviamente leggendo l'articolo. Patto per Firenze Sicura, sperano che possa davvero avere un significato. La firma, che stamani a Palazzo Medici Riccardi hanno messo il prefetto Alessio Giuffrida e il sindaco Dario Nardella, alla presenza ovviamente del ministro degli interni Minniti. Questa è una tendenza che sembra irrefrenabile. Poi si scopre l'arcano. Dopo appunto queste dichiarazioni iniziali, l'articolo prosegue con: sì, perché seppure i numeri diramati dal procuratore Giuseppe Creazzo dicono che i reati non aumentano, di certo è ben diversa la realtà percepita da chi vive la città, ovvero dai circa 230.000 che frequentano quotidianamente e dagli oltre 14 milioni di turisti, bla bla bla, vittime tutti insieme di un'escalation preoccupante che non sempre si traduce in verbali e deposizioni e spesso non rientra neppure nei mattinali delle forze dell'ordine, ma ugualmente e a maggior ragione fa paura. Ecco, io l'ho letto proprio per come è scritto, perché mi sembra davvero un capolavoro di falsificazione della realtà. E appunto si dice che seppure i reati sono in diminuzione, e non è che lo dice qualcuno che vuole minimizzare, non si sa per quale ragione poi, ma insomma non lo dicono i buonisti che vogliono minimizzare la consistenza dei reati, ma lo dice Giuseppe Creazzo, insomma il procuratore. Eppure, a maggior ragione fa paura, perché la percezione è un'altra. Ma allora noi, più che domandarci, affermiamo: ma non siete voi che scrivendo questo e dicendo questo create la percezione che poi fa paura? Cioè questo odio, questa paura che si diffonde nelle nostre società, da dove viene se non da articoli e da falsificazione e manipolazione della realtà di questo stampo e di questo tipo? Cioè che mentre dicono che i numeri non confermano un dato, nello stesso tempo però dicono che la paura è a maggior ragione giustificata. Cioè, anziché dire e usare i numeri per riportare i piedi per terra di chi in un modo o nell'altro, per varie ragioni, potrebbe prendere la tangente e riempirsi la testa di paure inutili, cioè anziché usare i numeri, la statistica, le rilevazioni e anche l'esperienza quotidiana per riportare le persone con i piedi per terra, invece no, si utilizzano fantasmi, o forse si creano, perché a questo punto non è detto, appunto si dà per scontato che la percezione sia un'altra, ma questa percezione chi la rileva? Da dove viene rilevata? Attraverso i social network, che lasciano poi il tempo che trovano. E quindi si prosegue dicendo che le statistiche, infatti, non cancellano lo stato delle cose. Rendetevi conto di che frase è questa: le statistiche non cancellano lo stato delle cose. Non tutti i reati aumentano, va bene, ma non sono pochi quelli che vengono commessi ogni giorno. Ma cioè, siamo proprio nella follia, nell'irrazionalismo più totale. A Firenze, dice la gente comune e confermano gli osservatori, la delinquenza è sempre più pericolosa e violenta. Ma allora dovrebbero aumentare i reati violenti. Invece, però, i numeri non lo confermano, però lo dice la gente comune e lo confermano gli osservatori. Chi sono questi osservatori? Non ci è dato saperlo. E invece le cose vengono dette dal procuratore, che utilizziamo in questo caso come una fonte autorevole, sono ribaltate dal senso comune e dalla percezione della gente. Anche se i criminali o i crimini fossero in minor numero rispetto al passato, a cambiare è la qualità dei delitti compiuti. Un'inversione di rotta nel garantire controlli e presidi è dunque il minimo, è atto dovuto e necessario, è quello che i cittadini si aspettano. Ecco, io penso che davvero qui siamo di fronte al capolavoro e si vede come appunto le materie più impalpabili, come quelle della percezione, della paura, dei sentimenti, sono terreni assolutamente minati, rispetto ai quali l'informazione pubblica, ora non voglio stare io che sono assolutamente partigiano nel commentare le notizie, non voglio diciamo invocare nessuna neutralità dell'informazione, però un compito sicuramente non può essere quello di soffiare sul fuoco che forze politiche sappiamo come agitano e come stanno agitando, anche perché come facevo notare nella cronaca scorsa, ma in tante altre cronache che farò e faremo e ognuno di voi può fare, si legge come questo odio, queste responsabilità, questo rancore venga sempre poi orientato per essere scaricato su chi è più debole. Quindi questo articolo mi è sembrato davvero un capolavoro, ve l'ho letto, vi ho preso del tempo, ma se a qualcuno fosse sfuggito, credo che avesse insomma un suo perché e abbiate capito le ragioni per le quali mi sono dilungato a leggerlo. Da Repubblica del 13 febbraio, sempre il commento su Minniti, subito 13 pattuglie in più, quindi Minniti è venuto portando 13 pattuglie, insomma non si discute. È pronte sin da oggi 5 della polizia, 5 dei carabinieri, 3 della guardia di finanza, per un totale di 26 agenti. Penso proprio che ogni fiorentino non aspettasse altro e che è davvero quello di cui abbiamo bisogno. Insomma, però lo dice la percezione popolare che loro, attraverso i loro osservatori e strumenti di rilevazione, hanno rilevato. Inserito sotto questa cosa, dentro la stessa pagina della Nazione, c'è Renzi, porto tutto il PD a Stazzema. Ovviamente si parla di Sant'Anna Stazzema, luogo dove è avvenuta una delle più famose, giustamente famose e ricordate stragi e eccidi compiuti dal nazifascismo, così intanto proprio per dirla, per ricordarla, il 12 agosto del 44, un eccidio in cui hanno perso la vita 560 persone, di cui addirittura 130 bambini, eseguita non solo dai tedeschi, ma anche da fascisti italiani. Diciamo i principali protagonisti sono stati la divisione, mi pare Panzer Division, una Panzer Division tedesca, ovviamente l'esercito tedesco, delle SS, però c'erano anche una brigata Mussolini, mi pare fosse la 36esima, ma chiunque può controllare, che travestiti da tedeschi, quindi doppiamente vigliacchi, guidarono diciamo la Panzer Division nel luogo in cui tutta questa popolazione civile si nascondeva e compiendo omicidi di massa e sistematici, pianificati e particolarmente efferati, appunto pensando a quello che è successo ai bambini, ai corpi bruciati, insomma una cosa davvero tragica che credo che chi ascolta la radio non può non conoscere se non necessariamente nel dettaglio, nel quale non mi dilungo, era solo per ribadire la sporcizia morale con la quale il PD di Renzi andrà a cercare una ripulitura e andrà a cercare una patente di forza antifascista quando proprio loro, appunto come esito ultimo, speriamo davvero ultimo del progressivo distaccamento di quella che si è configurata come la sinistra, centro-sinistra, a partire dal PC del dopoguerra, proprio loro che dagli anni 90 in poi sono stati tra i primi attori protagonisti nell'avallare, nel permettere che il fascismo storico fosse piano piano ripulito da tutti gli elementi di brutalità, di efferatezza. Hanno contribuito alla equiparazione delle ragioni dei partigiani e dei ragazzi di Salò con le dichiarazioni vergognose che non possiamo non citare continuamente di Luciano Violante, mi pare fosse il 93 addirittura, quindi ancora prima della discesa in campo di Berlusconi e della nascita di Forza Italia, che poi avrebbe dato la spinta allo sdoganamento sistematico e più pieno delle forze dell'allora, quella che allora appunto era prima l'MSI, poi dopo la svolta di Fiuggi diventata Alleanza Nazionale. Quindi questo tentativo di, da una parte, di ripulire il centrodestra da ogni rapporto con il ventennio, dall'altra parte però anche l'espulsione dalla memoria storica collettiva di quello che era stato realmente il fascismo, per arrivare a costruire, ad accreditare un mito che è quello del fascismo buono, di un fascismo che non aveva fatto male a nessuno, che in fondo funzionava bene e che semplicemente c'era stato l'errore da parte di Mussolini di allearsi con Hitler, e poi da lì era cominciata una serie di eventi che erano sfuggiti di mano, ma che erano quasi una parentesi nella storia della quale lo stesso fascismo non era responsabile. Ecco, quest'idea che è stata costruita attraverso i Bruno Vespa, che raccontavano come la famiglia Mussolini fosse così dolce e carina al suo interno, che si ritrovavano a suonare il pianoforte, insomma, cose melense e tristissime di questo stampo, però sono andate anche di pari passo con la totale acquiescenza, il totale silenzio, neanche la capacità minima di far rispettare quella che era la Costituzione e gli articoli, diciamo la natura antifascista della Costituzione italiana, quando sono ricominciate a nascere, o meglio, non sono mai del tutto scomparse, ma quando piano piano sono ricominciate a nascere anche le versioni più pop del fascismo, come per esempio Casa Pound, come la destra non conforme, la destra identitaria, che si è diffusa a macchia d'olio su tutto il paese e che ha fatto le sue vittime, i nostri compagni, Dax, Renato Biagetti, Affocene, e poi la strage di Piazza Dalmazia e poi Macerata. Insomma, le mani di questa gente sono state armate anche dal silenzio e dalla complicità delle forze del centro-sinistra. Ed oggi, probabilmente proprio perché l'effetto Macerata è stato un effetto boomerang, e sicuramente gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat sanno e hanno visto, ma proprio per fare un passaggio breve, a Macerata il nemico comune, tanto per cambiare, sono stati gli auto-organizzati, sono stati i movimenti, sono stati i compagni e le compagne. Perché quando nelle iniziali, diciamo, discussioni sull'organizzazione della manifestazione, l'ANPI e soprattutto la CGIL e il PD avrebbero preteso di chiudere la manifestazione nazionale di Macerata, mettendo un palco dal quale far parlare i loro uomini politici, giustamente gli auto-organizzati di Macerata hanno detto: no, oggi è una giornata diversa, oggi non ci interessa che qualcuno ci cavalchi per fare campagna elettorale. Oggi è una giornata in cui si dice che chi ha la pelle di un altro colore non può rischiare appunto questa pelle perché qualche pazzo ideologizzato nelle sedi e nei circuiti che voi stessi per anni avete tenuto aperti e tenete in piedi e ai quali avete strizzato l'occhio si permette di sparare. Quindi dalla manifestazione le forze politiche e anche sindacali si sono sottratte, gravissima è stata la loro complicità, e probabilmente questa cosa nei loro sondaggi elettorali si è dimostrata un boomerang e forse una degli escamotage, delle strategie di marketing politico con le quali stanno cercando di correre ai ripari, è anche quella di non perdere il terreno del cosiddetto antifascismo, terreno che hanno abbandonato per anni e sicuramente non hanno intenzione di ricominciare a praticare adesso, ma che per ragioni di opportunità politica trovano sensato dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Da una parte con Minniti si è superato addirittura le politiche di controllo migratorio messe in atto dal centrodestra, ma dopo una situazione come quella di Macerata, cioè o si è più a destra di Forza Nuova oppure si sta in qualche modo in un altro campo. E probabilmente da questo punto di vista il PD sentendosi o ritenendosi incapace di poter superare la destra a destra, per quanto, ripeto, Minniti è riuscito a fare politiche di controllo dei flussi e non solo, anche tutta la questione del Daspo urbano, tutta la questione delle riforme sull'ordine pubblico, non sono da meno, ma soprattutto nel campo del controllo dei flussi ha dato il meglio di sé. Nonostante questo, il PD probabilmente ha scelto che a destra non potrà superare la destra e quindi fa finta a questo punto e cerca di non perdere voti a sinistra. Non si sa da chi pensano di ingannare a questo punto, però il tentativo è questo e quindi Renzi porta tutto il PD a stazzema, tutti a stazzema di iscriversi alla famosa anagrafe antifascista, iniziativa anche rispettabile, ma che in questo senso comincia a cambiare anche i connotati. Cambiamo del tutto argomento. Un articoletto interessante del 13 di febbraio da Repubblica: la salute più ricchi ma più malati. C'è una relazione tra benessere e cancro. Ebbene sì, sono risultati determinanti l'inquinamento e l'aspettativa di vita. Società più ricche e prosperose, sì, ma anche più ammalate. Crescita economica va da sempre più di pari passo con l'aumento dei casi di tumore. 122 paesi di tutto il mondo, Italia compresa, è stato pubblicato lo studio sulla rivista Ecological Economics. Uno studio direi abbastanza interessante, condotto da questi tre ricercatori di Pisa, come ha detto su 122 paesi, punta ad analizzare le cause della diffusione del cancro nei paesi più sviluppati. Ciascuno dei 122 paesi esaminati è indicata l'incidenza del cancro oltre alle 8 tipologie di tumori più diffuse. I ricercatori hanno messo in relazione queste informazioni con il PIL, prodotto interno lordo, è emerso che più un paese è in crescita, più aumentano i nuovi casi di tumore. Questa è purtroppo una cosa interessante, lo diciamo da tempo, questo PIL non è un indicatore di felicità e di benessere in realtà, è solo un indicatore di crescita economica, un indicatore di crescita economica che porta con sé sempre più disuguaglianze sociali e anche sempre più devastazione ambientale e nocività. Siamo riempiti di nocività, questi sono i risultati. Che l'inquinamento ambientale giochi un ruolo non secondario, secondo i ricercatori, è ad esempio visibile nel caso dei tumori al polmone, che risultano in crescita anche se nei paesi più ricchi il numero dei fumatori è in diminuzione. Questo ci sembra un elemento importante di questa notizia perché è un indicatore non da poco, cioè nonostante tutte le campagne, o meglio, siccome tutte le campagne per la riduzione dei fumatori hanno dato anche i loro frutti, anche qui segno evidente che quando in una direzione si prova ad andarci, sia con politiche, diciamo in qualche modo repressive, ma anche con educazione popolare e altre forme di intervento, si riesce a modificare i comportamenti di massa anche in profondità, eppure. Nonostante siano in calo i fumatori, aumentano i casi di tumore al polmone e evidentemente la questione è quella degli ambienti di vita sempre più saturi di nocività e di inquinanti, a partire proprio da una criticità che abbiamo sollevato più volte, che è quella delle polveri sottili e nanopolveri, sia PM10 che PM2,5. Scusate ancora per questa maledetta tosse che ha dato fastidio un po'. Un po' a tutti, un'altra notiziola che mi sembrava carino segnalare, le norme anti-alcol, siamo sempre nell'ambito, diciamo, delle politiche di sicurezza o di decoro o di controllo urbano, ma i vinaini non si toccano. Questa appunto un po' si va a inserire in quello che è diciamo il marketing territoriale, ci mancherebbe altro che se andasse a colpire il consumo di vino, come si farebbe poi a vendere la città, così insomma, diciamo le caratteristiche identitarie di quella che è la Toscanità costruita in modo appunto mainstream e mercificato a scopo di vendere, cioè agli stranieri, ai turisti non si può impedire, non si vuole impedire di bere il bicchiere di vino all'aperto, perché appunto è la città anche questa, ma si vuole impedire di bere diciamo, alle classi, poi sostanzialmente si riduce a questo, alle classi meno abbienti, cioè tutti quelli che magari i giovani, i ragazzi o anche persone che ormai tanto giovani non sono più, che però hanno meno soldi in tasca e in una serata in centro si sono rivolte dagli anni 90 in poi ai classici, quelli che vengono chiamati mini market ormai in modo anche dispregiativo per spendere qualcosa meno, sono quelli che vogliono essere colpiti. Perché? Perché la città è una città nella quale uno dei progetti in ballo è quello di avere meno gente ma che spende di più. Quindi non ci interessa avere orde di ragazzini di ventenni che dai quartieri vengono nel centro di Firenze cercando quello che poi è la promessa che la città fa a tutti, no? La città del divertimento, la città turistica, la città anche culturale, ma in qualche modo una città di movida, ma questa promessa la si mantiene solo nei confronti di quelli che possono permetterselo. Gli altri stanno a casa e si ubriacano col tavernello. Ecco, questo è un po' così per essere un po' tranchant, ma siamo anche, diciamo, in dirittura di arrivo, benché ci manchino, come spesso succede, un sacco di notizie. La questione delle bici, del bike sharing, si va a chiudere per il 15 di febbraio, quindi il 12 avevano cominciato dicendo ma forse Gobi se ne va, non si capisce bene. Il 15 Gobi se n'è già andata, è già partita. Anzi, non solo se ne va Gobi, ma arriva subito il sostituto che è Ofo. Gobi Bike lascia ufficialmente il servizio di bike sharing a Firenze. Ok, e in città c'è già il nome del nuovo operatore. Si chiama Ofo, ha bici di colore giallo. E in Italia è già presente Milano, Torino e Varese. La società cinese ha come grande finanziatore Alibaba, il principale concorrente di Amazon nell'e-commerce. Già negli scorsi mesi aveva presentato la sua offerta al comune di Firenze. Ecco, in pratica è successo che chi si candida per portare le biciclette in affitto? Società appunto milionarie, sono degli enormi operatori economici che in sostanza vedono in questa attività nient'altro che un settore di mercato, uno spazio economico da coprire e dal quale estrarre profitto. Questa è una, diciamo, una sostanziale criticità di quello che è una forma capitalisticamente compatibile di trasformazione in qualche modo ecologica delle nostre città. Ecco perché con tanta sfiducia pronunciamo parole quali smart city o bike friendly, perché appunto dietro ci sono questi enormi potentati economici che si fanno la guerra e non si fa vergogna di quello che appunto che succede. E quindi insomma arriva Ofo al posto di Gobi, che se ne va perché si dice che ci siano stati troppi atti vandalici. La cosa fa quasi far ridere, se non facesse incazzare, anche perché le politiche, diciamo, di incremento dell'utilizzo della bicicletta, prima di arrivare a decidere che sarebbero state immesse 4.000 biciclette da parte di Mobile, che poi un altro operatore Gobi, che poi ora diventa Ofo e quant'altro, c'era stato da parte del comune un diciamo, velleitario tentativo di discutere anche con i biciclettai, con altre associazioni ciclistiche e quant'altro, cosa che ovviamente è stata del tutto bypassata e poi superata, perché quello che importava era dare un grande appalto che desse lustro e chiamare i grandi operatori per mettersi al pari con le metropoli del mondo ed europee. Quindi questo è quanto. Però, insomma, che Firenze sia una città bike friendly viene da ridere. E per concludere, guardiamo una notiziola così che non esce dalle cronache dei giornali, ma viene fuori dal mondo dei social media, diciamo quella parte del mondo dei social media che in qualche modo ci è vicina. È una notiziola che ha girato dentro la pagina Facebook della Critical Mass Firenze, che segnala come in Via Giotto vengono portate via dai vigili, in quanto relitti, senza preavviso, un bel numero di biciclette fotografate. Ora voi non le potete gustare, se volete andare a riguardarvi la pagina, guardatele, saranno una cinquantina di biciclette tutte ammucchiate, la maggior parte solo un po' sgonfie. Saranno classificate come rifiuto speciale e smaltite di conseguenza al macero. L'avviso messo una settimana prima avrebbe evitato questo scempio. Erano bici perfette, solo inutilizzate per l'inverno. Questo dimostra come viene percepita la bicicletta a Firenze, un rifiuto da smaltire. Direi che non possiamo che dargli ragione per tanti versi. Uno, perché sì, togliere le biciclette senza dare preavviso è veramente da infami, e solo chi in bicicletta non ci va non può non saperlo, ma è la stessa che rimuovere automezzi o automobili senza dare preavviso. Nello stesso tempo si lega anche purtroppo alla questione dei rifiuti, perché biciclette potrebbero essere riparate, vengono poi buttate via. Ecco che anche la bike friendship del comune di Firenze si riduce a questo, cioè il free floating e il bike sharing sono solo ed esclusivamente un affare nel quale operatori che a un certo punto, per una ragione o per l'altra, se ne vanno, lasciano il passo a un altro e non importa chi ha pagato la cauzione, se le bici ci sono o se non ci sono, e chi invece la bici ce l'ha in proprietà, magari la usa per alcuni momenti, altri no, e può succedere che la bicicletta decade, se la vede portare via e smaltita come rifiuto speciale. Quindi attenzione prima di cascare nelle loro retoriche. C'è stata poi la vicenda della tranvia, della quale possiamo tranquillamente parlare più avanti, proprio perché le tranvie non partono, e anche se Nardella ha regalato i panini pagati con i suoi 260 euro di tasca e scontrino a nome suo per far vedere che è una persona onesta, ancora i cantieri della tranvia sono aperti. E la questione è ancora tutta da decidere. Un salutone a tutti voi, ricordandovi che la trasmissione la sentite lunedì in diretta alle 15:30 e martedì, mercoledì, giovedì e venerdì sempre alle 15:30 in replica. Se no, scaricatevi il podcast. Pugni chiusi, salutoni e alla prossima puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat.